Benvenuti a tutti e a tutte gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Inizia Tracce di Cinema 15.01, giovedì 4 maggio. Oggi il nostro ospite è un compositore. Ci fa molto piacere averlo con noi, anche se non è fisicamente con noi, sarà con noi in collegamento telefonico. Nasce nel 1968, è siciliano, è un autore di colonne sonore di teatro, televisione e ovviamente di cinema. È stato apprezzato fin da subito dalla sua prima colonna sonora, che era quella per il film televisivo La Piovra di Giacomo Battiato. È iniziato un sodalizio artistico con un regista molto sensibile e attento per quanto riguarda l'accompagnamento musicale dei suoi film, Gabriele Muccino, che lo ha voluto nel suo primo lungometraggio Ecco Fatto del 1998, e da qui appunto una lunga collaborazione. Ha curato per lui quasi tutte le sue colonne sonore, se non tutte, e ha curato anche le colonne sonore di altri bei titoli, insomma, del cinema italiano. Ha lavorato con Michele Placido, Giovanni Veronesi, Paolo Virzì, Roberto Faenza, Stefano Incerti, Grimaldi, per il quale ha composto le musiche del bellissimo film Caos Calmo, scritto e interpretato da Nanni Moretti. Ha vinto diversi premi importanti, il Nastro d'Argento e Davide Donatello nel 2008, proprio per questo bellissimo film e per la sua bellissima colonna, e per la bellissima colonna sonora che ha appunto curato il nostro ospite Paolo Buonvino. Ed è stato anche, Fede, non so se lo sapevi, assistente di Franco Battiato. Ha proprio iniziato così, diciamo, la sua carriera lavorativa, affiancò a questo grandissimo autore, e magari ci racconterà lui qualcosa di questa esperienza. E direi che possiamo iniziare subito con la musica. Sarà una puntata soprattutto musicale questa di oggi, poche chiacchiere e tantissimi brani che ci ascolteremo con calma, perché questo musicista va ascoltato così, con serenità e in relax. We'll be right back. Jumping dalla colonna sonora del film L'ultimo bacio, Paolo Bonvino. Sì, L'ultimo bacio, naturalmente Gabriele Muccino, regista, autore di questo film del 2001, una storia interessante perché era forse una delle prime riflessioni su una generazione e il rapporto di coppia, che poi insomma è stato un argomento forse anche un po' abusato all'interno delle storie cinematografiche degli ultimi anni, ma è stato proprio Gabriele Muccino a dare il via un po' a questo genere di film, che ottenne un eccezionale incasso al botteghino ai tempi, 13 milioni di euro, pensate un po', veramente tanti, e che ha vinto molti premi e ha consacrato questo regista, era la sua terza pellicola, al successo internazionale, perché è stato fatto anche un remake in America di questo film, che si chiama appunto The Last Kiss, diretto da Tony Goldwyn, però che non ha avuto lo stesso successo di questo film di Muccino, Fede. E ricordiamo gli autori che ne facevano parte: Giovanna Mezzogiorno, Stefania Sandrelli, Giorgio Pasotti, Favino, Claudio Santamaria e moltissimi altri. Il titolo del film è proprio la canzone che caratterizza questo film, è la canzone di Carmen Consoli, L'ultimo bacio, che a me piace molto, però non l'ha scritta il nostro ospite. Tra l'altro, nella selezione noi stiamo procedendo nell'ordine in cui ci hanno mandato le tracce, delle quali ne abbiamo scelte una serie, e quindi io proseguirei sempre, sì, in questo. Sì, e che fanno se non sbaglio fanno parte proprio di un CD pubblicato, di una compilation. Di una compilation pubblicata da Paolo, che sono tutte le, insomma, le i suoi brani più Da Baciami Ancora, questo è sempre Paolo Buonvino, La meraviglia di esserci, il titolo del brano. Sì, e questo era il sequel del film L'ultimo bacio, di cui abbiamo sentito una traccia poco fa. È uscito nelle sale nel 2010, sempre la regia, sempre di Muccino. C'è stata la sceneggiatura scritta insieme a Petraglia e Rulli, due grandi, yes. Proprio sì. No. E c'è stata tutta una querelle, stavo leggendo adesso, tra gli attori e Muccino, che è sempre protagonista di cose un po' buffe, no? Che finiscono un po' sulla cronaca rosa. E stavo leggendo che, insomma, Giovanna Mezzogiorno ha rifiutato di interpretare il nuovo ruolo in questo film, e perché diceva che, insomma, era molto riconoscente da Muccino, ma insomma il suo personaggio era finito nella prima opera che aveva realizzato questo regista. E poi invece Martina Stella pure, di conseguenza, ha rifiutato pure lei questo ruolo, che però invece Muccino ha detto di non averle mai assegnato in questo Baciami Ancora. E quindi c'è stata tutta una carriera tra i due, molto, insomma, proprio all'insegna proprio di bella tosta, ecco. Non mi vengono le parole oggi. Questo dalla colonna sonora di Italians, All'alba ti pensai, per dirla in siculo. Sì, sì, il mio brano preferito tra tutti quelli che ci ha concesso di suonare quest'oggi il nostro ospite Paolo Buonvino. Il film Italians è un film del 2009 diretto da Giovanni Veronesi, che ha avuto un enorme successo di botteghino, e questo brano questo film si svolge in Africa, è proprio una è quasi l'anima del film, di questa pellicola, e Buonvino si è affidato a un collaboratore speciale, al cantante palestinese Faisal Taher, a cui ha commissionato sia i testi che l'interpretazione di questo brano e di altri due brani molto, molto belli che stanno all'interno di questa colonna sonora. Uno è questo, Alla Bati Pensai, e Strade da rabbia e Occhi. Allora, questa volta dalla colonna sonora del film Il mio miglior nemico, il titolo del brano era Achille Orfeo. Sì, un altro regista appassionatissimo di musica che cura in modo maniacale quasi sempre le sue colonne sonore, Carlo Verdone, un film del 2006 diretto e scritto da lui, interpretato da anche insieme accanto a Carlo Verdone Silvio Muccino, ritorna questo cognome. Ha ricevuto tantissime candidature ai David di Rotello nel 2006, addirittura 12, ma non ha vinto nulla, veramente un record bizzarro di sfiga. E però ha incassato, è stato campione di incassi in Italia il weekend di esordio, ha esordito con 5 milioni di euro nel primo weekend, e ha incassato veramente tanti soldi. Ma è bene per Verdone. È sempre la garanzia al botteghino, sì, Verdone. Sì. Thank you. E siamo passati a Caos Calmo, questa era Ti ricordi, e visto che di alcuni film abbiamo un paio di brani, io direi di saltellare, per cui da Caos Calmo poi ci spostiamo, e nel frattempo abbiamo contattato Paolo che si sta spostando dalla metropolitana, per cui ne mandiamo poi un altro e poi lo contatteremo telefonicamente. Caos Calmo, Ottavio. Caos Calmo 2008, Antonello Grimaldi regista, interpretato dal grandissimo Nanni Moretti, tratto dallo romanzo di Sandro Veronesi, che vinse il premio Strega nel 2006, è stato, penso, anche in gara al Festival di Berlino. Beh, veramente un bellissimo film, a me piacque tantissimo, e la colonna sonora è appunto scritta dal nostro maestro Paolo Bonvino, ma comprende anche dei brani fichissimi dei Radiohead, Stars e Ivano Fossati, che il cui brano usato nel film ha vinto il David di Donatello per come migliore canzone originale, quindi scritta appositamente. E beh sì, bellissimo film, molto bella anche la colonna sonora, sì, proprio me lo rivedrei quasi. Poi tanto facciamo dopo la colonna sonora tutta intera, no Fede? Sì. Comunque dopo ne ascoltiamo anche un altro tratto dal film. Sì, molto volentieri. Cambiamo film. Dalla colonna sonora del film Ecco Fatto, Gabriel Tango, che è anche la sigla cinematografica della Fandango. E abbiamo in collegamento telefonico il nostro ospite di oggi, Paolo Bonvino, ben trovato. Ciao a tutti. Come va? Tutto bene. Mi avete fatto fare un salto nel passato con questa colonna sonora. Allora, finora abbiamo ascoltato L'ultimo bacio, Baciami ancora, Italians, Il mio miglior nemico, Caos Calmo e questo Ecco fatto. Avete fatto un overdose. Sì, e beh, continueremo anche perché abbiamo un'ora a disposizione, Paolo. Bene. Allora, Paolo, una cosa che notavo in alcuni dei brani che abbiamo proposto è un utilizzo, un sottofondo anche di musica tradizionale riarrangiata. E questa è una tua peculiarità? Ma diciamo, io essendo nato in Sicilia, vissuto fino a 30 anni in Sicilia, inevitabilmente, anche quando non lo faccio consciamente, ho nel sangue tutta una serie di cose nelle orecchie, e quindi credo che sia inevitabile che entri quella parte di me. Poi in certi momenti questo aspetto è più evidente perché è anche voluto, in certi altri momenti questo aspetto è meno evidente, però uno è fatto anche di questo, quindi sono consapevole di questo e credo di essere felice anche di questo, perché poi avere questa peculiarità significa avere una personalità, ecco. Poi questa personalità si traduce in verità, per cui credo che nella musica ci sia bisogno di questo. Sì, poi la musica molto spesso porta con sé le radici, no, di una vita, delle esperienze, certo, fatte, certo, vissute, dei luoghi dove si è passati, no, Paolo, credo? Assolutamente. La musica è, essendo impalpabile, cioè uno non può prendere nelle mani un pezzo di musica, prendo un CD, ma il brano in sé, no? Non è un quadro, non è un piatto da mangiare, no? Un cibo, è impalpabile. Questa sostanza, non sostanza, che è solo uditiva, quindi sono frequenze, è spostamento d'aria fondamentalmente, diciamo così, per dirla. Questa impalpabilità la rende anche più profonda e la rende anche più entra dentro una persona in maniera senza chiedere permesso, diciamo così, anche grazie al fatto che una delle cose che ci accadono poco prima di nascere è che si sviluppa l'udito, prima della vista, prima del gusto e di altri sensi. Questo provoca una sorta di imprinting, diciamo così, tra come ci sentiamo in quel momento, come feto, no? Ci sentiamo bene, ci sentiamo male, e lo associamo a ciò che ascoltiamo, perché ancora tutti i sensi non sono funzionanti, ma l'udito sì. Quindi questa associazione di benessere con un suono, con un rumore, di malessere con un altro rumore, fa sì che dentro di noi si crei, diciamo così, una sorta di schema di corrispondenze, che nella musica poi viene, come dire, rivissuto in forma molto complessa, molto articolata e così via. E questo fa sì che la musica arrivi, non chieda permesso all'intelletto, ma vada in una con un binario privilegiato, per cui noi ci possiamo difendere da una frase che dice delle cose con cui non siamo d'accordo, perché diciamo non siamo d'accordo con questo, ma una musica che sappia mettere in evidenza quello che ho appena detto, ci entra e sembra così nostra, già nostra, che... ed è una bella vittoria, nel senso che comunque ascoltando i tuoi brani e leggendo la tua filmografia, insomma, hai partecipato hai collaborato con registi e hai curato le colonne sonore di film che hanno avuto successi straordinari a livello di botteghino e di premi, eccetera. Sì, ma forse sono stato fortunato. Non so, stavo riflettendo, no, su questa cosa che ha detto Federico. Forse il successo più grande, insomma la soddisfazione più grande, è quella proprio di riuscire a evocare in chi ascolta la tua musica quella melodia interiore che hai tu, insomma, arrivare. Sì, diciamo, lo scopo di questo lavoro sarebbe soltanto ed esclusivamente questo, e io credo che si possa fare solo se uno parte da un atto di verità, cioè io faccio la mia musica, non la musica che è un cliché, piuttosto che... E quella ha un rischio, può non piacere a nessuno perché può piacere solo a me, oppure può toccare le corde anche di 10 persone, di 100 persone, di 10.000 persone o ancora di più. Però questo atto di verità è quello che secondo me è utile. Come hai presente quando si fa un sorriso, no? Se tu vedi sorridere una persona, vedi gusto, vero? Piano piano questo sorriso si espande e diventa un effetto domino, ti viene buon umore, così come se uno c'ha malumore, un po', no? Ti incupisci. Quando si fa un sorriso di circostanza, finto, cioè non vero, questo sorriso non arriva nello stesso modo, perché tu capisci che è finto. Ecco, la musica ha qualcosa di simile, cioè se la musica è sincera, cioè l'autore l'ha fatta perché risuonavano dentro queste note, allora c'è una probabilità che si crei un effetto domino, che gli altri lo abbiano, come il sorriso vero. Bene, quando vero. Si fa musica di circostanza, cioè musica a tavolino, oppure non arriva, non arriva. Sì, magari lì per lì ti sembra che arrivi, ma in realtà non arriva. Senti Paolo, stavo leggendo nella tua biografia che hai iniziato, diciamo, il tuo percorso lavorativo accanto a un grandissimo, a Franco Battiato, sì, Franco, insomma, Battiato, siciliano come te, amico. Raccontaci un po'. Siciliano come sì, te, raccontaci, dai. Siciliano come me è stato così. Io ho studiato pianoforte e anche discipline delle arti, musica e spettacolo, il famoso DAMS a Bologna. A un certo punto un mio amico mi dice: tu dovresti conoscere Franco Battiato. Ma così nessuno, né lui né io conoscevamo personalmente Franco Battiato, cioè mi mette, come dire, in relazione per questioni di assonanza, non lo so, mi dà quest'idea. E allora mi viene quest'idea di come è vero, e provo a fare una ricerca per l'università, tipo una tesi, era un inizio di tesi di laurea, sulla musica colta, i rapporti tra musica colta e musica pop, cercando Franco Battiato, ma per mesi, cosa che non riuscivo a trovare, cercare un ago in un pagliaio, non riuscivo, nessuno, fino a quando un giorno, dopo mesi, 6 mesi circa di ricerca, mentre ero in un negozio di strumenti musicali a Catania, mi si presenta davanti. Ma dai, ammazza che storia! Dico, no, Franco Battiato. Allora io conoscevo il padrone del negozio, gli dico: no, me lo devi presentare, gli spiego tutta questa storia, è un segno, gli dico, questo non beh, è che... certo. Me lo presenta, lui mi dà un numero di telefono del suo agente, mi spiega come fare, e dopo un mese lo incontro e lì mi ha colpito una frase di Schopenhauer che dice: i tuoi desideri sono il tuo destino. Per cui desiderare bene, naturalmente, per il proprio e altrui bene, fa avverare le cose. E da lì poi ho fatto un'intervista che è durata credo 3 giorni, e io lo intervistavo per un'ora, poi non finivo, dico domani torno, fino a quando, diciamo, mi sono anche proposto, ho detto: se vuoi che, insomma, se serve uno che fa il caffè piuttosto che io sono disponibile. E lui mi ha preso a ben volere, e avevo il privilegio di poter andare a casa Battiato mentre lui componeva, sedermi a fianco, zitto, e ascoltare e vedere. Che meraviglia! Per me, sì, è stato. Se voi naturalmente avete un'idea di chi è Franco Battiato come persona, come musicista, come persona di cultura e spirituale, eccetera. E un giorno sì, un giorno no, riuscivo a essere lì. Fino a che poi ho fatto dei piccoli lavori per lui, ma erano più pretesti per stare insieme, che facevo proprio il sub assistente, ecco. Però lui mi voleva bene e mi vuole bene, perché ancora continua questa amicizia, naturalmente in forme diverse, e ogni tanto gli facevo ascoltare quello che facevo. E una volta mi ha fatto, c'è un aneddoto che, se posso raccontare, assolutamente devi. In pratica io scrivevo delle canzoni, che in quel momento cantavo anch'io, ma non avevo l'età di cantare, però magari di fare l'autore. Gliele facevo sentire e lui mi diceva: bello, brutto, così via. A un certo punto, dopo un ascolto, lui mi fa: senti Paolo, secondo me tu devi fare musica per film. Io lì per lì l'ho presa malissimo, perché ho detto: gli ha fatto schifo la canzone. Cioè, è come se mi ha detto: guarda, lascia perdere canzone, non è cosa da te, prova con la musica per film. Io glielo racconto sempre perché me lo ricordo, sono passati ormai 25 anni e in realtà lui non aveva screditato quello che avevo fatto, ma aveva intuito, quando ancora io stesso non era non ero in grado di intuirlo, una mia, come dire, attitudine. Esatto, una mia attitudine. Per cui, e da lì poi noi abbiamo, come dire, avuto sempre di più un contatto di vario tipo. Soprattutto ci accomuna una certa ricerca di chiamiamola spirituale, ma che passa dalla ricerca spirituale vera e propria a raccontarsi le barzellette o a fare un viaggio insieme ridendo come due forsennati per delle battute piccole, semplici, o a parlare di cose che invece hanno, in cui ci si può perdere, diciamo così. Allora, questi sono stati gli inizi insieme a Battiato, però succede anche qualcosa nel presente di importante, perché stai dando vita insieme ad un tuo collega a un progetto che riguarda proprio la composizione di colonne sonore. Ce ne parli, Paolo? Allora, voi vi riferite al mio laboratorio? Esatto. Allora, più che un collega sono tanti. Tanti colleghi. Allora, sì, io ne dicevo uno in particolare, insomma. Sì, lo so, si riferisce a Emanuele Botti, sì, che è stato mio assistente, uno dei miei primi collaboratori, poi è cresciuto ed è stato un ottimo compositore, e adesso abbiamo questa esperienza in comune. Cioè, io 4 anni fa ero preso da 1000 richieste, come per fortuna, insomma, accade in certi casi. E molto spesso fai un lavoro ma ne devi rifiutare 4. E partendo da questa cosa, alcuni miei collaboratori mi dissero: ma perché non facciamo ci mettiamo a fare un laboratorio? Cioè, io utilizzo la mia esperienza, che ormai sono più quasi 70 film, 20 anni di questo genere, più 10-12 collaborazioni nel pop, e la freschezza di chi comincia, l'entusiasmo di chi comincia, per fare in modo che magari questi lavori che io non riuscivo a fare, non potevo farli e non volevo farli attraverso il ghostwriter, cosa che non ho mai fatto, no? Sai cosa sono? Hai un ghost che scrive e tu firmi, cosa assurda, medievale, che non ha senso. Invece io cominciai con una produzione che nella fattispecie era Rai e Lux Vide, che per una serie televisiva dissi: guarda, io questo non lo posso fare, però secondo me ci sono due musicisti, due compositori che conosco benissimo perché hanno collaborato con me tante volte, che io posso supervisionare e tutelare, diciamo. Io garantisco, visto che l'avete chiesto a me, garantisco che si fa una qualità di un certo tipo, e lavoriamo in una forma nuova, cioè in cui loro firmano quello che devono fare, io supervisiono e si va avanti in questo senso. Da quella iniziale esperienza è nato un modo di lavorare in laboratorio. Questo laboratorio nella fattispecie si chiama Good Lab Music, l'abbiamo chiamato così, in cui appunto i musicisti, ci sono 6 compositori più altri musicisti strumentisti che ne fanno parte, o music editor, che tutti tesi a, come dire, rafforzare il proprio vicino e non a fare gara per chi butta fuori l'altro, non so come dire. Sì, sì, collaborazione, ecco. Esatto, una collaborazione che sembra una parola semplice, ma molto spesso in tanti campi invece non è facile, soprattutto in un momento in cui tutti i lavori adesso sono diventati ancora più complessi, perché si pretende velocità, si pretende consapevolezza, si pretende di spendere poco. Quindi c'è collaboratorio, stiamo riuscendo pian piano, stiamo provando a tutelare chi comincia, perché per me in questo momento è più semplice, io ho una credibilità, una come dire, se un committente chiede a me, io posso chiedere tutta una serie di cose che a uno che comincia non sono concesse. Per il laboratorio serve a tutelare chi comincia e a far sì che anche in un momento di difficoltà ci sia uno scambio di appunto di idee, di lavoro, che consente di cominciare a lavorare direttamente, perché poi questo laboratorio non fa finta, ma fa dei lavori veramente, per cui in 4 anni abbiamo fatto 16 produzioni, e per produzione intendo film, serie televisive andate in prima serata in Rai o al cinema. Cinema abbiamo fatto delle cose con Cattleya, che quindi non di secondo ordine, però tutte cose e progetti che sono stati in qualche modo, in cui i musicisti che ci hanno partecipato sono stati un po' più tutelati da questo gruppo, perché questo gruppo consente di avere un po' di credibilità in più già dall'inizio, un po' di scambio, come quando in un ospedale ci sono diversi medici, no? Sì. Allora, che ne pensi, che si fa, eccetera, senza togliere la personalità del musicista, senza diventare un'industria, ma avendo sempre cura che la personalità, come dicevamo prima, la verità di quella musica esca con la tutela, sta appunto nel far uscire al massimo quella verità. Sì, sì, sì, sì. Senti Paolo, ci lasci tutti i riferimenti per questa esperienza, per saperne di più sul web? Allora, sul web c'è un sito che è il mio sito personale, paolobuombino.com, sì, che all'interno ha una sezione, un altro sito, diciamo così, che è appunto Good Lab Music, e lì si può andare a vedere un po' di cose, e poi c'è una pagina Facebook che è Good Lab Music, e tramite questi canali si può cominciare a capire. Noi spesso, poi io viaggio per conservatori alla ricerca di talenti, per percepire bene se c'è qualcuno che fa questo mestiere, che ancora non è riuscito a uscire, no? Che sì, c'è un talento, sì, puro, sì, sì. In futuro credo che faremo anche dei corsi proprio perché possano essere utili a chi magari sta a Trapani piuttosto che in Valle d'Aosta e non ha un collegamento con il cinema, con, e può in qualche forma, e però ha un vero talento, può in qualche forma poi crescere dentro il laboratorio e esprimerlo, prima con cose più piccole e poi pian piano. Noi siamo molto selettivi, però poi quando accettiamo uno lo coccoliamo talmente tanto che lo facciamo, che diventa sempre più bravo. Bene, allora Paolo, noi ti ringraziamo, complimenti. Grazie. Speriamo a voi di risentirci presto, proprio in occasione di qualche novità del laboratorio. Allora mi sa che ci sentiremo molto presto. Molto presto. È stato un piacere, il prossimo, Paolo. I prossimi lavori saranno, insomma, tra qualche mese saranno completati. Bene. Allora, un abbraccio. Grazie. E a presto. A presto, grazie. Ciao, a voi. Ciao Paolo. un bel crescendo per questa rivoluzione versione B dalla colonna sonora del film I Viceré di Roberto Faenza, che è un autore che abbiamo, che ha avuto anche ospite a Visionari. E chi non ha avuto ospite a Visionari, Fede? Dai. Che ci dici? Dei Viceré, uscito nel 2007, tratto dal romanzo, scusate, di Federico De Roberto, è la storia di questa famiglia siciliana catanese, gli Uzeda. La colonna sonora è del film, è stata curata dal nostro Paolo Bonvino, ma accompagnata anche dalla presenza di due elementi molto interessanti, che sono l'associazione musicale e culturale Stesi Corea Scordia della città di Scordia, che appaiono anche nel film, e di un gruppo di musica folk che appare anch'esso nel film e che si chiama Ab Antico. Quindi insomma una colonna sonora veramente veramente molto curata. Il film, al contrario, belle percussioni, sì, bellissimo. Il film, al contrario del libro, è più, diciamo, un film storico, mentre invece il libro si approfondiva di più la storia di questa famiglia terribile, caratterizzata da personaggi avidi, assetati di potere, meschini, e dall'odio che ognuno di questi componenti nutriva per l'altro. E insomma, c'è questa piccola grande differenza tra le due cose. E poi c'è tutta una storia di Roberto Faenza, che insomma si è arrabbiato molto, ha fatto una grande polemica perché non è stato invitato il film al Festival Internazionale di Roma, e perché non era stato riconosciuto il suo valore artistico, mentre lui dice che questo invece è dipeso dal fatto che era una critica troppo feroce al trasformismo. Tra l'altro vedo diversi David di Donatello. Sì, ma diversi David di Donatello per la scenografia, i costumi, le acconciature, e nessuno però per il nostro maestro. Ora, un film che tenevo volevo proprio inserirlo nella scaletta di oggi. Dal film Terra Matta, l'omonimo brano per il film di un'autrice e amica che è Costanza Quatriglio. Ci piace un sacco, sì, Costanza. Sì, sì, Costanza Quatriglio, per una storia incredibile che ha dato spunto anche ad un importante spettacolo teatrale che abbiamo proposto anche al Radioteatro. Una storia di un uomo che su un quaderno con una lingua tutta propria ha raccontato un pezzo di storia, decenni di storia di questo paese, a partire dalla Sicilia. Straordinario. Stavo leggendo qualcosa adesso su internet. Vincenzo Rabito decide di munirsi di una vecchia macchina da scrivere e, semi analfabeta, appunto avverte l'impulso di mettere su carta la sua storia, la sua vita dal 1968 al 1975. Per 7 anni si chiude in una stanza all'insaputa di tutti ogni giorno e riempie 1027 pagine che racchiuderanno il ricordo della sua vita. Cito: male trattata e molto travagliata e molto disprezzata, il procedere di un'esistenza che lui paragona allo sforzo immane di una tartaruga che stava a revanto al traguardo e all'ultimo scalone cascavo. Bello. Siamo ai saluti. Torniamo giovedì prossimo, sempre dalle 15 alle 16. L'indirizzo di posta elettronica è traccedicinema@ondarossa.info. Ci stanno ascoltando Peter e Fiore, se sì, non sbaglio. Un bacio a tutti e due, a tutte coloro hanno avuto la pazienza e il piacere di ascoltarci. Vi ricordiamo che questa radio sta per compiere 40 anni, sono previsti un sacco di festeggiamenti, un sacco di iniziative. Partecipate per sostenerla, ma potete sostenerla anche attraverso il nostro conto corrente postale, che è intestata a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volci 56 00185 Roma, oppure potete sostenere questa radio libera dal 1977, senza padroni, senza padrini politici, che vive senza pubblicità fin dalla sua nascita, attraverso il sito della radio, che è www.ondarossa.info, dove troverete tutte quante le coordinate per sostenerci via web. E vi portiamo ad Attica Blues con un altro film, sempre le cui musiche sono curate da Paolo Bombino, La Matassa. Questa è Come Fratelli. A giovedì prossimo.